Yes people, questo è Jolly Roger. People, questa è Jody Giorgero. Saluti dalla Grecia, da Matteo. Yes people, questo è Jolly Roger. Un saluto particolare dal nostro amico Matteo, che si trova in quel della Grecia. Puntata speciale, oggi non ci troviamo in quel del Brancaleone, come consuetudine. Ci siamo stati invitati a Welcome, una realtà che parla di accoglienza, immigrazione, insomma una puntata speciale nel quale ci sarà modo di conoscere anche le persone che vivono questa realtà. È una realtà che si trova nel terzo municipio di Roma, targato Idea Prisma, che salutiamo. E niente, quindi una puntata speciale, piano piano parleremo con gli ospiti appunto che sono qui, che vivono qui direttamente, e aspettiamo anche il nostro amico nonché responsabile di Welcome, Emanuele Petrella. Però iniziamo col primo pezzo che ha scelto lui. Quanta gente ha incontrato in vita tua, qualcuno è rimasto, qualcuno il vento se l'è portato via, quelli vicini pure quando sono lontani per contarli, t'avanzano le dita delle mani, tutto il resto è distrazione e circostanza, so comparse, chiamate a far presenza. Che ha sempre cercato rogna e adesso guarda nell'angolo sperando che gettino la spugna. Un campione in bicicletta imbattibile in salita che hanno fatto fuori sull'ultima volata. Se spengono i riflettori dopo una serata butta giù alcolici e rancori. Hai baciato, te sei abbracciato tutti, te sei confidato coi peggio farabutti. Barcolli verso casa solo con un pensiero, con chi te chiama da lontano per fatte far l'ultimo giro. In pista l'ultimo giro, se capisce il vincitore, qua l'ultimo che resta è quello che c'ha più dolore. Guardi in alto, il cielo nero più remoto, mai come stavolta te sei sentito dentro il vuoto. Vorrei salire su una cometa per farmi portar via con la forza di un reattore alimentato con la malinconia. Guarda tutti dall'alto mentre prende il volo e piagne lacrime di gioia e non sentirmi più da solo. Soffi campione e fa scendere sipario tutta l'aria che c'ho un petto, fammi esprimere un desiderio. Ma è strana sta vita fatta di dolore e speranza. Un momento sei finito, un altro sei il re della danza. A centropista con tutti gli occhi che te stanno addosso. Stasera non c'è storia, t'è entrato pure il meglio passo. Vestito di tutto punto, pulito e improfumato, faresti innamorare tutte le donne che hai desiderato. Ma sta vita è un attimo a finire sul pavimento. Ammirazione e disprezzo sono lo stesso sentimento. Sei stato tutto e non sei stato niente. E mo vivi per strada e parli con un passante. Delle cose che racconti hai vissuto mille vite, nelle linee delle mani leggo quante ne hai passate. Con la pioggia de tempesta siamo stati benedetti, dal fuoco della vita siamo stati maledetti. Vorrei salire su una cometa per farmi portar via, con la forza di un reattore alimentato con la malinconia. Guarda tutti dall'alto mentre prende il volo e piagne lacrime di gioia e non sentirne più da solo. E mo che dall'alto hai visto tutto, vorresti saltare, ritornare di sotto, abbraccià la prima persona che passa di là, guardarla negli occhi e dire che gliela potemo fa. Vorrei salire su una cometa per farmi portar via, con la forza di un reattore alimentato con la malinconia. Guarda tutti dall'alto mentre prendo il volo, capì che finché sorge il sole nessuno sta da solo. Soffia ogni lampione e fa scendersi vario tutta l'aria che c'ho un petto, fammi esprime un desiderio. Prima del pezzo, puntata speciale, siamo in quel di Welcome, una realtà che parla di accoglienza e immigrazione. E praticamente siamo ancora in attesa del nostro amico Emanuele, prima o poi speriamo entro la puntata, quindi entro le 18, e siamo in attesa anche del primo ospite che si trova, anzi che condivide appunto il nucleo abitativo di Welcome. Allora passo il mic alla nostra amica Alice che va direttamente con l'intervista alla nostra ospite. Ciao, come ti chiami? Ciao a tutti, sono Caterina. Sono Caterina Tischenko, sono ucraina. Quanti anni hai? Ho 31 anni. Da dove vieni? Sono ucraina. Quando sei arrivata a Roma e come? Arrivata a Roma 3 anni fa. Arrivata perché mia figlia è malata. Questo motivo per curare mia figlia. Quindi diciamo è ospite di Welcome perché appunto sta una bambina piccola che è in cura qui da noi in Italia, quindi rientra in un determinato protocollo di accoglienza. Proseguiamo, Alice. Che cos'è Welcome? C'è scritto qua? Welcome. Che cos'è Welcome? Welcome per me è cosa bella. Welcome, questo progetto trasformato anche, questa cosa trasformata mia vita, trasformato, più bello. Perché quando ti sei integrata di più, insomma, cioè è stato quella cosa in più che ti ha fatto apprezzare il tuo soggiorno qui in Italia. No, sta stato troppo complicato. Io la faccio un po' più leggera la domanda. Aspetta. Quando sei arrivata subito in Italia, dove stavi? Che cosa è successo? Quando sono arrivata, sì, io abito da sola, arrivata con internazionale, progetto internazionale per Bambin Gesù, sì, abitava prima altra parte, hotel, Manole, sì, e quindi. E dopo, piano piano, ho trovato questo centro. Perfetto, andiamo avanti. Stai bene qui in Italia? Adesso sì. Adesso bene, sta tutto a posto, piano piano. È prima tempo, no, Perché pensavi alla piccolina? Ah, tua figlia piccola. Eh sì, certo, problemi, figlia, oppure anche figlio. Ma è nuova vita. Perfetto, è rinata in quel di Welcome. Meno male. Vai, poi abbiamo altre Cosa domande? fai nella vita? Cosa fai nella vita? Cioè, lavori, studi? Prima cosa studio lingua italiana, certo. Adesso sto facendo corso teatro, teatrale. Mi piace tanto questo. Sei arrivata da Perfetto. sola? Sei arrivata da sola qui in Italia, oltre che con i tuoi figli? Arrivata prima con mia figlia e poi arrivati mio marito e mio figlio. Perfetto. Allora, noi andiamo con un altro pezzo e poi ritorniamo sempre in diretta qui da Welcome. Quando il mare fa paura e le onde son leoni e compaiono dal niente, marinaio di 20 anni, non guardare su nel cielo, il tuo cuore cederà. Thank you. fu punita anticamente per avere bestemmiato il suo dio troppo ostile, superando in gran tempesta capo di buona speranza. Torniamo in diretta, siamo in quel di Welcome. Stavamo appunto parlando con la nostra ospite, anzi siamo noi gli ospiti in questo caso, puntata particolare perché appunto abbiamo abbandonato la bolla del Branca solo per questo venerdì, poi ritorneremo come sempre nel nostro amato spazio. Anzi, un saluto a tutte le amiche e tutte le amiche che frequentano e lo spazio del Brancaleone, un saluto particolare alle nostre amiche del gas. E niente, ritorniamo con la nostra ospite. Appunto, lei prima ci ha raccontato di che è venuta in Italia per curare la figlia, poi a seguito, a distanza di tempo, l'ha raggiunta anche il marito e anche il figlio, l'altro figlio più grande. E invece di parenti, di parenti invece sei da sola, qualcuno mi diceva che hai anche tua mamma. Sì, e poi un anno fa è arrivata mia mamma, perché bisogna aiutare, me questa cosa, sì, oppure guerra, esatto. E anche questo, sì. Esatto, a proposito quindi di guerra, visto che comunque sei dell'Ucraina, forse la prima volta che, forse anche l'unica che riusciamo a parlare con persone che conoscono queste realtà, insomma la loro realtà. Io vedo tante volte immagini, cose, ormai l'Ucraina è in guerra da un anno e mezzo e praticamente è quasi tutta rasa al suolo, mi confermi questa cosa, com'è la situazione se tu hai parenti, amici che ancora sono lì e che, o che comunque sono sparsi in Europa a causa appunto della guerra? Sì, tutti altri, mio papà, tutti altri parenti, tutti in Ucraina. Ma mia città Dnipro è più tranquillo, ma sì, anche mia città ogni tanto bombe, sì, ma no come altri, Donbass, sì, per esempio, Lugansk, mia città più tranquilla. Perfetto. E qualcuno di voi ragazzi aveva qualche domanda da fare? Passo il mic al nostro amico Luca. Da quanto tempo che tu sei qui in Italia? 3 anni. Confermo, sono sempre 3 anni. Poi, Ali, tu hai qualche domanda da fare? No. Vabbè, allora vado io con un'altra domanda. Un giorno dovrai abbandonare questa realtà di Welcome, suppongo. Cioè, la mia domanda è un progetto che farà parte della tua vita, suppongo sì, Welcome, che ti accompagnerà a lungo. Allora, rifaccio la domanda. Qui a Welcome, per quanto tempo pensi di frequentare, di andare avanti con questo progetto? Già hai un'idea o cosa? È difficile. Quindi questo progetto è finito per me ottobre. Fino a ottobre io sto qua. E poi altra nuova vita. Adesso io non lo so come dopo, come fuori.

sono un bravo cristiano. Ma non sono cristiano. Tu fa l'americano. Io voglio morire da italiano. Io voglio una vita come Vasco. Stringere la mano a Celentano. Ti voglio nuda col calzino bianco. L'uomo vitruviano, io sono il tuo Leonardo. Mamma, marama, si le piace a papà, parapà. Non gli piace a te, te, te piace un altro, ok. Nel mio letto c'è spazio. Ma le canzoni d'amore sono meglio suonate. Te le canto così. Ai, ai, ai, ai, ai. Nel momento piccante ti messaggia l'amante. Ma va bene così. Ti piace che sono perverso e non mi giudichi. Se metterò il rossetto in ufficio lunedì. Da due passiamo a tre. Ci siamo meglio è. Ci dicono di no. E adesso ci lasciate fare il sesso. Made in Italy. L'amore. Made in Italy. Il sogno. Made in Italy. La storia. Made in Italy. Sexy lady, bop bop bop di bop boom, badabadi bop bop bop di bop boom. Ti piace che sono perverso e non mi giudichi. Se metterò il rossetto in ufficio lunedì. Da due passiamo a tre, più siamo e meglio è. Ci dicono di no, e adesso ci lasciate fare. Il sesso, made in Italy. L'amore, made in Italy. Il sogno, made in Italy. La storia, made in Italy. La festa, made in Italy. La voglia, made in Italy. I piedi, made in Italy. L'Italia, made in Italy. E ritorniamo in diretta, questo è Jolly Roger in onda tutti i venerdì dalle 17 alle 18. Salutiamo tutte le amiche e tutti gli amici che ci supportano e ci sostengono, in particolare Gemini Network e Radio Grad che ci ritrasmette tutti i mercoledì sempre dalle 17 alle 18. Potete riascoltare tutte le nostre puntate sui canali su archive.org, trovate tutti i podcast e torniamo in diretta con il nostro amico Luca. Ovviamente è il momento delle sue consuete rubriche, quindi partiamo subito con le offerte. Poi ovviamente passiamo un altro pezzo, siamo in attesa di intervistare un altro ospite di Welcome. Offerte supermercati Tigre. Barretta Garad cioccolato bianco a 1,89 euro. Aia viennese a 3,50 euro. Gelato Kinder Bueno a 1,99 euro. Perfetto, quindi questi sono i consigli per gli acquisti del nostro amico Luca. Andiamo con le battute allora, visto che siamo belli incanalati, e poi passo subito il mic al nostro amico Luca. Hai tre desideri, vorrei che la matematica non esistesse più. Hai finito i tre desideri. Cosa fa un biscotto che piange? Gocciola. Perché non si possono fare le battute nei ristoranti giapponesi? Perché sono suscettibili. Questa era fenomenale, cioè non poteva che non esserci il momento delle battute. Manca il nostro amico Matteo, appunto, che è in trasferta in quel della Grecia. Mancano i suoi aggiornamenti di calciomercato e appunto non parleremo di calcio, ma andiamo con un altro pezzo e poi torniamo sempre qui da Welcome. Yo quiero bailar contigo. Yo quiero romper contigo. Yo quiero bailar contigo. Yo quiero romper. Oye, la mía no me daña en el baile. Se fue la señal, no le tengo reply. Pon la mano en el sky. Sube la high, high, high. Go. Estamos perreando en el party. Tú sabes quién es tu daddy. Aquí le llega everybody. Legales también ilegales. Como tú nadie baila. No pare, pare, pare. Síguelo hasta mañana. No pare, pare, pare. Aquí todo el mundo se liquidó. Acabando con el líquido. Soy callado pero no tímido. Esta fiesta la hacemos los dos. Passato i consigli degli acquisti del nostro amico Luca, le solite battute che ci tengono compagnia nel weekend, e andiamo con l'intervista a un altro ospite di Welcome. Passo il mic al nostro amico Luca. Ciao, come ti chiami? Ciao, mi chiamo Luba, sono ucraina. Quanti anni hai? 51 anni, anno. Anche se le donne non si chiede mai l'età, giusto Luca? Sì. Quando sei arrivata a Roma e come? Sono arrivata a Roma 3 anni fa, dapprima da sola. Scorso anno venuti i miei figli quando inizia la guerra. E come? Come sei venuta? Come sei arrivata? Sì, dall'Ucraina qui a Roma. Come sei arrivata con l'autobus? Sono arrivata con l'autobus. Figli arrivano con l'autobus. Un difficile viaggio perché 25 ore è difficile un po'. Vai. Che cos'è Welcome per te? Welcome per me, apro Welcome come una bella famiglia internazionale, mi piace molto qui, tutti ospiti molto bravi, dolci, aiutano, molto interesso, visto diversi culture, assaggiamo diverse cucine, interesso qui. È una bella esperienza, insomma. Stai bene qui in Italia? Sì, qui sta molto tranquilla adesso e contenta che mia figlia con me. cosa fai nella vita? Oh, da prima lavoravo, sono economista, ma qui faccio tutto. E faccio pulizie, compagnie. Quindi pur di lavorare fai tutto. E babysitter, c'è tre figli miei, qui un po' lavoravo come babysitter. Perfetto, allora noi andiamo con un altro pezzo e poi ripassiamo a un'altra chiacchierata. Volati. Io e cinque garçon, un Casio, tre moto e un casco integralo, mamma, oh, se ti tocca ti stavi preoccupando. Tranquilla mamma, son con lei che sta shakerando, shakerando, shakerando. Poto sta se non c'è sta shakerando. Sta shakerando, shakerando, shakerando. Poto sta se non c'è sta shakerando, shakerando, shakerando, shakerando. Bebe su di me sta shakerando, i problemi pian piano stanno passando, Bebe scotta come il fumo caldo, qua è silenzio e fuori un assalto. Lei è calda solo a letto, fuori una plage vuota d'inverno. Riempie la Louis Vuitton come niente, con due cazzate prese in centro. Bebe so che sai tutto di me, tieni il giubbo, tocca e cola tutta, hai freddo. Bebe so che sai come la B non spaventerà il buio quando sei con me. La notte è lunga se non ci abbracciamo, anche solo per un po' non finirà più. Però tu non devi farlo per finta con me, come se fosse solo una scusa. Se fossi uno shooter e un bersaglio, in quel caso diventerassi il mio avversario. Saresti come tutti gli altri, bebè, tu non sai che cosa m'hanno fatto, che cosa m'hanno fatto. Da bebè piangeva, era tutto un disastro. Non tornava a casa un giorno e poi un altro. Ho perso una mia e poi un altro. Un Casio, tre moto e un casco integralo, mamma, oh, se ti tocca ti stavi preoccupando. Tranquilla mamma, son con lei che sta shakerando, shakerando. E ritorniamo in diretta, si chiacchierava fuori onda appunto dell'esperienza del modello di accoglienza che c'è qui a Welcome, di come si convive fra culture e realtà diverse, della loro provenienza, di quello che hanno lasciato e di quello che hanno trovato. Sì, appunto la nostra amica ci raccontava che comunque è rimasta colpita dal fatto che lei ha ricevuto tanto aiuto, tanta solidarietà, che comunque anche un percorso che è venuta qui in Italia appunto per anche problemi non solo legati alla guerra ma legati anche alla salute del figlio, dove solo qui in Italia era possibile fare un'operazione del tutto particolare. E niente, allora gli lascio il microfono, vediamo cosa vuole raccontarci lei di questa esperienza di Welcome, di quello che farai dopo Welcome, cioè cosa farai durante e dopo Welcome, se stai facendo corsi, stai lavorando o altro. Sì,

siamo arrivati alla fine di questa bellissima puntata, una puntata ricca di chiacchiere. Abbiamo parlato con due ospiti ucraine che vivono e condividono lo spazio di Welcome, che è una realtà che si occupa appunto di accoglienza e immigrazione. Servirebbero più modelli di accoglienza piuttosto che appunto espulsioni e compagnia bella. È stato un piacere essere qua. Salutiamo il nostro amico Matteo che si trova in Grecia e passo il mic per i saluti ai ragazzi. Ciao a tutti e buon weekend. Ciao a tutti e buon weekend. Ciao a tutti e buon weekend. Dai, è forte, buon weekend a tutti e tutte. Mi amor, te amo, baby, mon amor, hakuna mwingine kumsikia. Kwenye masikio yangu hakuna mwingine wa kumuona. Kwenye macho yangu ni bebe, ni bebe. Hani nishushe mabani, ni gege, ni gege, mikoko tabani. Mi amor, nikuite jina gani baby? Hani boo. Jina gani mahabuba azizi? Mon amour, oh mon amour. Never seen before. Wengine wanini? Oh la la la, la la la. Never seen before. Tewote mpaka kifo. Madunga embe wanini? Oh la la la, la la la. Kwenye joto ni pepe, kwa baridi ni kumbate. Kwenye mvua ni kinge, huo mwavuli. Nishushe mabani, nigege, nigege, mikoko tabani. Mi amor, nikuite jina gani baby? Ha, oh, oh, oh.